Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, buon pomeriggio. La Commissione Unione Europea interviene sullo stato delle pensioni italiano. Aspettiamo di vedere come il governo applicherà la sentenza della Consulta sulle pensioni, ma qualsiasi cosa cambi, gli obiettivi di bilancio del documento di programmazione finanziaria dell'Italia deve essere compensato, sostiene Bruxelles. L'indice PMI manifatturiero dell'Italia sale a 53,8% d'aprile, da 53,3 di marzo, il livello più alto da aprile 2014. Il dato rilevato da Adasia Market Economics supera le attese del mercato, che non andavano oltre un aumento a 53,4. Quota 50 è la soglia di demarcazione fra espansione e contrazione del ciclo. Serve un accordo completo a livello tecnico tra la Grecia e Bruxelles Group, tutto il resto è nebuloso, così fonti europee sulle discussioni in corso a Bruxelles della scorsa settimana tra Atene e i suoi creditori. Una volta trovata una piena intesa a livello di staff, allora l'Eurogruppo potrà prendere una decisione. Intanto, spiegano altre fonti europee, sono programmati almeno fino a mercoledì gli incontri del Bruxelles Group, mentre in vista dell'Eurogruppo regolare del prossimo lunedì si riunirà anche l'Euro Working Group. Meno tre giorni al voto britannico, tra i temi che infiammano la campagna elettorale anche quello sull'appartenenza all'Unione Europea. Servizio. L'Europa è protagonista dell'ultimo weekend di campagna elettorale per le elezioni britanniche in programma giovedì. Il premier David Cameron ha ribadito che non guiderà un governo senza garantire un referendum sull'appartenenza all'Unione Europea, referendum che lui stesso ha messo in calendario tra due anni. Le ultime ore hanno portato un'apertura dei liberal democratici di Nick Clegg, tradizionalmente più filoeuropeisti. Clegg non ha escluso un bis della coalizione con i Tories, anche a costo del referendum sull'Europa, ma le nostre linee rosse politiche verranno prima, ha promesso. A opporsi al referendum britannico sul dentro o fuori dall'Europa restano i laburisti di Ed Miliband, forti anche del terrore che una simile eventualità sta seminando nel mondo produttivo e della finanza, mentre l'euroscettico Nigel Farage si pone come spina nel fianco di Cameron, sostenendo la linea dura dell'uscita senza se e senza ma dall'Unione. I sondaggi domenicali hanno aumentato l'incertezza, conservatori e laburisti sono appaiati tra il 33 e il 34%, gli euroscettici al 13, i liberal democratici all'8, ma si tratta di percentuali vuote col sistema uninominale britannico. Già è chiaro che il tandem conservatori Lib Dem rischia un impossibile matrimonio con Farage, mentre Miliband potrebbe non avere scelta e varare un esecutivo laburista sotto il giogo dei nazionalisti scozzesi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione Europea ha lanciato l'edizione 2015 del premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i migliori lavori giornalistici sui temi dello sviluppo, specificamente dell'eliminazione della povertà. Quest'anno viene indetto all'insegna del motto «Le storie di oggi possono cambiare il nostro domani» e coincide volutamente con l'anno europeo per lo sviluppo 2015. Per la prima volta è aperto anche ai giornalisti dilettanti, compresi i blogger, che concorreranno in una categoria distinta. È tutto, quando sono le 14:05 minuti e 5 secondi. Vi saluta qui Daniele Biacchessi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.